Victoria. Malte si gettò su di lei con tutto il peso del suo corpo informe, cercando di strappare la chiave dal quadro. Victoria premette l'acceleratore, ma il furgone non si mosse. Si accorsero entrambi nello stesso momento che il freno a mano era ancora tirato. Malte fu il più veloce a reagire. Urlando, tempestò di pugni il petto di Victoria, che strillava cercando di morderlo sulla schiena. Alla fine riuscì ad afferrare la chiave e a spegnere il motore. Poi scese dal furgone, posò le mani sulle ginocchia e riprese fiato, ansimando pesantemente. Victoria appoggiò la testa sul volante. C'era arrivata così vicina. C'era mancato così poco. Dopo un paio di minuti si sentì addosso lo sguardo d'odio del marito. «Credevo che fosse entrato un ladro», disse Malte, ancora senza fiato. Victoria non rispose. «Pensavi di scappare così?» Lei gli lanciò un'occhiata furibonda. «Qui non ci voglio più stare. Voglio il divorzio. Voglio tornare a casa». Lì per lì Malte sembrò soltanto sorpreso, come se da un momento all'altro dovesse darle un colpetto sulla mano e dire «Capisco». Ma l'espressione di stupore si trasformò rapidamente in rabbia. Raddrizzò la schiena, fece un passo avanti e afferrò Victoria per un braccio, tirandola fuori dall'abitacolo. «Brutta puttana viziata!» urlò scagliandola contro il portellone sul retro. «Pensavi di scappare, di lasciarmi dopo tutto quello che ho fatto per te!» Fissandola spiritato, la spinse contro il furgone premendole un braccio sotto la gola. Victoria boccheggiava. «Lasciami, ti prego, lasciami!» implorò. Il mondo le girava attorno, tanti puntini rossi le danzavano sulla retina. Si rese conto che stava per morire. «Sono stato troppo buono con te», disse Malte guardandola negli occhi. Victoria cercava di rispondere, di chiedere scusa, ma non riusciva a pronunciare una parola. Dalle sue labbra usciva solo un gorgoglio. Un attimo dopo, perse conoscenza.